baby. Forza della natura, meravigliosa e scura, bella da far paura, in questa calda sera nera, l'abbronzatura, la pelle di colora e sfiora il mio sguardo ancora, quel corpo da pantera. Chissà se tu vivi qui, chissà dove abiti, se ti fermi, fermi, fermi, o sei qui di passaggio, dove il caldo ma sei tu che alzi la temperatura, non i fiori ma sei tu che profumi l'atmosfera, alzati, girati, muoviti, risiediti, non è il caldo ma sei tu che sei bella vera. Sale su quanto basta, il perizoma al lato e passa, la vita passa, dei jeans si arriva fino all'anca, la curva bianca, le forme sottolinea e dona, tanto si intona alla tua pelle bruna, chissà se d'inverno sei come adesso. Siamo in onda, Music World, Ricky One e Barbie per voi. Buongiorno a tutti, abbiamo iniziato subito il programma alla grande con un pezzo degli 883 di Bella Vera. Buongiorno a tutti dalla vostra Barbie. Tutti lunedì dalle 15 alle 17 il nostro programma Music World con Barbie e Ricky One. Staremo in compagnia con le musiche più belle del mondo, le vostre dediche. E siamo qui tutti lunedì per voi, per ascoltare le musiche più belle del mondo in diretta. After the rain, the sun. Ciao a tutti dalla vostra Barbie, abbiamo la prima dedica che ci giunge da Nadia di Torino. Abbiamo Daniele Silvestri con Salirò in questo caldissimo pomeriggio di giugno. Dunque, per la nostra amica Nadia, tra un po' Salirò di Daniele Silvestri. Intanto, se volete fare come lei, contattateci per le vostre dediche richieste, sempre qui su Radio Rive Session. Dunque, salutiamo tutti i nostri amici che in questo momento ci stanno seguendo in diretta dalla chat. Un bacione a tutti da Barbie e Ricky One. Speriamo di tenervi compagnia in questi caldissimi pomeriggi di giugno, tutti i lunedì, vi ricordo, stesse frequenze, dalle 15 alle 17 su Radio Live Session Music World. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa. E preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato. Il resto distrutto, disperato ancora un po', ma poi ripartirò. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano, lontano, lontano. Preferirei ricominciare piano piano dalla base, tra le rose lentamente risalire. Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore, in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole un arcano a moto. E salirò, salirò, salirò, salirò tra le rose di questo giardino. E così salutiamo e congediamo anche la nostra amica Nadia di Torino con Daniele Silvestri, la musica che avete ascoltato prima che era Salirò. Vi lascio in compagnia di Paulina Rubio, Lo Are Por Ti, che è una musica bellissima, stupenda. E, a dopo, un bacione a tutti dalla vostra Barbie. Esto de planar futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizándote a ti te veo más loco que yo, que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti de todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona y estoy segura que esta vez lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me elevas como un hogar. de nuevo en una sola dirección. Daré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como loca al viento. Volevo fare un grande saluto a Stefano Di Chivasso, che saluta la sua ragazza Maria. Paolina Rubio con Loare per te, dedicata a tutti voi in questo caldissimo pomeriggio di giugno. Sempre su Radio Live Session, in diretta per voi. Appuntamento a mezzogiorno in piazza, la macchina l'ho controllata già. Quest'anno sarà proprio grande vacanza, è un anno che l'aspetto e tra un'ora si va. E questo è Alex Britti, io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua. Quattro amici, destinazione mare, maschere e pinne non ci servono, camicie giuste per andare a ballare, che tanto il vero mare non si vede più. Ma quei locali visti sulle riviste, leggende metropolitane o no, s'era parlato di 6.000 cubiste, e questo è tutto quello che per ora so. Ma quell'amico un po' più grande aveva detto: state in campana che non è proprio così. Io ci sono già stato e allora vi consiglio, se fossi in voi ci andrei organizzato così. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo suo e te con chi ti pare a te. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo suo e te con chi ti pare a te. La prima sera subito in discoteca, Madonna qui che atmosfera c'è. Non sono mai stato meglio neanche a una partita, mi sembra proprio questo il posto giusto per me. Mentre ballavo si avvicina una tipa, mi guarda e penso già che pazza di me. Mi sento grande in questo mondo formica, ci parlo due minuti e tutto viene da sé. Ma quell'amico grande mi tornava in mente, diceva inutile che andate fino lì. Vi divertite ma non conquistate niente, secondo me è meglio organizzati così. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo su e te con chi ti pare a te. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo su e te con chi ti pare a te. Restare da soli, le dico prendi le tue cose e via. abbiamo fuori mia regina di cuori. Continuiamo a bere nella stanza mia. Prendo le chiavi e avverto gli amici. Mezzo minuto poi mi giro e non c'è. Mi guardo intorno e dopo un attimo vedo che parla con un altro grosso il doppio di me. Ti giuro che non ho potuto fare niente, ma ha rovinato le vacanze quello lì, che con la scusa dell'amico intelligente mi ha portato sfiga e adesso canto così. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo suo e per confidare a te. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo suo e per confidare a te. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo suo e per confidare a te. Io con la ragazza mia, tu con la ragazza tua, lei con il ragazzo suo e per confidare a te. Questi sono gli Hanson, cioè un po'. Se siete superstiziosi, però volete avere fortuna in amore, ricordatevi che se vi capita di trovare un quadrifoglio da qualche parte in un prato, non raccoglietelo mai, mi raccomando, perché porta fortuna. Al contrario di quello che si pensa, che magari raccogliere un quadrifoglio porti bene, invece bisogna trovarlo, lasciarlo lì dov'è, perché comunque la fortuna poi arriva. Invece per le ragazze che hanno piacere di riconquistare comunque un amore perduto, o hanno piacere che esso ritorna perché magari hanno avuto qualche problema, ricordatevi di tenere sempre con sé in borsetta o portatevi sempre dietro ovunque andate uno specchietto, perché porta sempre bene, soprattutto per le ragazze. Oppure anche un talismano a forma di tartaruga, i classici elefantini, quelli che si trovano in giro, quelli indiani con le proboscitine alzate. sono molto molto buoni, attirano la buona sorte, e non dimenticate mai di tenere in casa sempre l'incenso, perché comunque l'incenso aiuta anche gli spiriti benevoli a venirli a trovare in casa, a stare comunque anche bene con voi stessi, perché sono comunque profumi aromatici che aiutano anche a stare bene insieme agli altri, con se stessi, e aiutano anche la casa a essere più buona, profumata. Questo soprattutto comunque dedicato alle ragazze che sicuramente mi stanno ascoltando, probabilmente adesso in diretta dalla chat, e qualcuno che ci ascolta, scriveteci in tanti, fate le vostre dediche richieste. Ricordatevi, noi siamo sempre qua su Music World, vi ricordo che noi siamo il lunedì al pomeriggio, le musiche di tutto il mondo, italiane e straniere, dalle ore 15 alle ore 17, con Barbie e Ricky One. Look at me. It really was not easy, but I can breathe. And I'm so grateful, 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be. Apri un varco di luce. E continuiamo la nostra trasmissione con Paola Chiara, Festival. Più forte mentre dentro ti sento qui questo amore. Music World con Ricky One e Barbie. Siamo sempre in diretta su Radio Rive Session, questa è Music World. Dunque, prima vi stavo raccontando simpatici aneddoti carini per quanto riguardava un po' le tradizioni popolari o comunque le superstizioni. Se qualcuno ha delle curiosità potete sempre comunque chiedere curiosità, dediche, tutto quello che volete anche sulla nostra chat, mandateci i vostri messaggi, noi comunque ve li leggiamo. In particolare volevo parlarvi in questo momento dell'insetto della coccinella, sempre rimanendo in tema di superstizioni. Avete presente la coccinella, giusto? Che vive in Campania, la trovate un po' dappertutto. Poi questa stagione ce ne sono tante in giro, anche perché adesso fa caldo, è un po' sui fiori, soprattutto in mezzo ai prati. È bello comunque. Forse però non tutti sanno che in Inghilterra la coccinella è un animale molto particolare, considerata molto più di buon auspicio in Inghilterra che qui da noi. Non abbiamo ancora tutte queste credenze popolari importanti come hanno loro. Addirittura pensate che in Inghilterra le coccinelle sono tenute molto bene in considerazione, non tanto per il fattore della fortuna, quanto si pensa che se una coccinella si posa direttamente su di una persona, essa possa essere molto più fortunata per quanti mesi la coccinella ha di macchine sul dorso. Ossia, funziona così: i puntini neri della coccinella, a seconda di quanti ne ha, 5, 6, a seconda della coccinella, sono, basta calcolarli, bisogna vedere quanti puntini ha la coccinella e diciamo che se la coccinella ha 5 puntini neri, per 5 mesi uno dovrà avere una fortuna spacciata per 5 mesi di seguito. Se fosse veramente così sarebbe bellissimo. Sappiate però che un insettino alla fine comunque poi vola via, perché sono molto sensibili al calore umano, per cui se tenete una coccinella in mano per molto, cercate di non tenerla in mano tantissimo, perché sono molto sensibili, patiscono il caldo, potrebbero soffocare e porta molto molto molto male una coccinella che non vola via, ricordatevelo. with a man, but this man won't give back her love, so this is her right. E sempre dall'Inghilterra, adesso io sto parlando per le mie care amiche all'ascolto che mi stanno seguendo, un argomento prettamente femminile. Dunque, in Inghilterra, un altro simpatico piccolo aneddoto che adesso mi è venuto in mente, si dice che porti bene alle ragazze la rugiada del mattino, che sia veramente un toccasana per la pelle. Oddio, ci vorrebbe già la pazienza di andare a raccogliere la rugiada in giro di primo giorno, anche perché bisogna avere sia il tempo che la pazienza per farlo. Comunque, sembrerebbe proprio un toccasana per la pelle la rugiada, che fa bene alla bellezza femminile in Inghilterra. Per quanto riguarda invece dalle altre parti d'Europa, in Germania, perché i tedeschi un attimino più pratici si accontentano semplicemente più di una tisana calda, per cui un buon tè freddo comunque non fa mai male, soprattutto in queste giornate come oggi. Continuiamo sempre le musiche a richiesta su Radio Live Session Music World di Ricky One e Barbie, per Nadia, Teresa e Cinzia, che ci hanno chiesto Frena di Carlotta. Ve la lasciamo ascoltare, tutta vostra, buon pomeriggio, sempre qui in nostra compagnia su Radio Live Session. Senza meta, senza fretta, andare fuori città, qualcosa poi si inventerà, c'è una curva curva a sinistra, una gomma che fischia e un bambino saluta con la mano, ciao. Attenzione, deviazione, c'è una frana, chissà, lavoro in corso più in là. Carlotta con Frena. Dunque amici, la vostra Barbie vi lascia in compagnia di una musica bellissima, una musica di un film, Sliding Doors, chi non se lo ricorda, famosissimo, Turn Back Time. Thank you. could turn back time. If only I'd say what I still had. If only I could turn back time, I would stay for the night. If only I could turn back time. If only I'd say what I still had. If only I could turn back time, I would stay for the night. If only I could. If only I could. If only I could turn back time, I would stay for the night. If only I could. If only I could. If only I could turn back time, I would stay for the night. If only I could. If only I could. If only I could. Ok ragazzi, buon pomeriggio, siete sempre in diretta su Radio Live Session, direttamente con Music World dalla vostra Barbie e dal vostro Ricky One, qui in diretta per voi. Allora, se vi era piaciuta la musica di Sliding Door, quella che avete ascoltato prima del film, vi lascio questo momento in compagnia dei Noir Desire, che è un'altra musica stupenda che inizia già a rammentarci le vacanze, il caldo, il sole, questi pomeriggi caldi, questa voglia d'estate di vacanze. Tout disparaît à trois mains. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. L'atmosphère des taxis pour les galaxies et mon tapis volanti. Le vent emportera. Tout disparaîtra même. Le vent nous portera. Bene, spero che i Noir Desire vi siano piaciuti, perché era una musica veramente molto molto bella. Poi con questo caldo è una musica particolare, fa sognare. Vi lascio con Madonna, comunque ve ne sarete già accorti. Questa è American Pie, è sempre tratto comunque da un film. I can't breathe until you're resting here with me. sempre Radio Live Session, questo è Daido, ve la lascio ascoltare, non voglio rovinarvela perché è una musica bellissima. Vi ricordo che comunque noi siamo sempre qua, tutti i lunedì, dalle ore 15 alle 17 in diretta per voi, con le musiche di Music World, le musiche più belle del mondo di Barbie e Ricky One. J Bobo, Chihuahua. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Hey, everybody wants it everywhere. Sing it loud and life can be so easy. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. chihuahua. Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come amici, Radio Live Session. This is Mambo number 5. E questo chi è? Oh, bene, Lou Bega. Passiamo da una musica italiana a una musica straniera, anche perché questo è Music World, il vostro programma preferito della musica di tutto il mondo, di Barbie e Ricky Wan. One, two, three, four, che abbiamo lasciato appunto in compagnia di Alexia, con Jimmy Come. Adesso passiamo appunto a Lou Bega, Mambo number 5, bellissimo, ve lo lascio ascoltare, vi ricordo sempre che siamo qua tutti i lunedì dalle ore 15 alle 17 vi teniamo in compagnia con le musiche più belle del mondo. Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, learning is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right, one to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Number five. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Touch the sky. Mambo number five. Sono così strane, sarebbe meglio evitarle sempre e non rischiare di aver ragione, che la ragione non sempre serve. Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio, mi sembrerà come senza fine, ma guarderò il paesaggio. Sono lontano e mi torni in mente, ti immagino parlare con la gente. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. Te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il pensiero andrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. Pensiero ti verrà a cercare tutte le volte che ti sentirò distante, tutte le volte che ti vorrei parlare, per dirti ancora che sei solo tu la cosa che per me è importante. Che per me è importante. Just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful waiting for me to come home, to come home. If I were you were a better man. Ragazzi, questa è sempre Radio Live Session in compagnia della vostra Barbie. Vi avevo lasciato sulle dolci note di Beyoncé, ho preferito farvela ascoltare, non interromperla perché valeva veramente la pena di ascoltarla e di sognarla. Vi lascio in compagnia dei Coldplay, questa è Viva la Vida. Miei cari amici in ascolto, vi ricordo sempre che il programma di Music World va in onda tutti i lunedì dalle ore 15 alle ore 17, sempre in diretta su Radio Live Station. E Barbie e Ricky Wang vi terranno compagnia con la musica più bella del mondo, sia italiana che straniera, e anche per tutte le vostre richieste, per tutte le vostre dediche. Radio Live Session, vi abbiamo lasciato con i Coldplay, Viva la Vita, ed ecco tutta per voi Britney Spears con Womanizer. Un bacione a tutti e buon pomeriggio dalla vostra Barbie e dal DJ Ricky One. Victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way, I'm never gonna fall. Acqua, Barbie Girl, dedicata alla nostra Barbie. Thank you. Ok ragazzi, Radio Live Session, questi erano gli Acqua con Barbie Girl. Dunque, se vi interessa saperlo, contrariamente a quanto uno possa credere, il mese di maggio è una cosa un po' particolare. Generalmente la maggior parte delle persone il mese di maggio lo usa per sposarsi, per festeggiare, per fare le cose belle, per prendere iniziative, anche perché comunque dovrebbe essere, dovrebbe ipoteticamente essere un mese bello, fortunato. È comunque un mese molto positivo. Invece, sappiate che non sempre è così. Perché, contrariamente appunto a quello che si crede, il mese di maggio, nella credenza popolare, è ritenuto un mese sfortunato. Perché una volta non si prendeva proprio in considerazione, ad esempio, sposarsi o prendere iniziative nel mese di maggio. Perché si pensava, addirittura, che portasse sfortuna. Come mese, non si sa per quale motivo, probabilmente era una cosa legata al fattore della semina, perché comunque a maggio non si usava seminare, perché non era il mese predisposto a queste cose, per cui era ritenuto come un mese di stallo, ossia era un mese di transizione, di passaggio, e non era certo di buon auspicio in quei tempi, perché c'erano altre credenze comunque. Contrariamente a quanto comunque si possa pensare oggi. Sing. place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I Ok amici, li avrete senz'altro riconosciuti, Robin Williams in duetto con Nicole Kidman, Stupid Like I Love You, e sempre Radio Live Session in diretta il lunedì dalle ore 15 alle ore 17, sempre con voi, le musiche di Music World, Barbie, DJ Ricky One, in diretta qui sulla Radio Live Session. Salutiamo tutti gli amici domani che sono connessi, e se volete scriverci, mandateci pure tutte le vostre dediche, noi cercheremo comunque di accontentarvi. La mia brutta giornata, la mia parte di letto, in questa parte di vita. Salutiamo anche chi si è connesso con internet, quindi teniamo compagnia in questo pomeriggio caldissimo. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. Mai, mai. Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale. So che è successo già, che altri già si amarono, non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. Siamo stati sulla luna a mezzogiorno, andata solo andata senza mai un ritorno, e abbiamo fatto piani per un nuovo mondo, ci siamo attraversati fino nel profondo, ma c'è ancora qualcosa che non so di te, al al centro del tuo cuore che c'è. So che è successo già, che altri già si amarono. Non è una novità, ma questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, che non potrà finire mai. Eccomi qua, sono DJ Ricky One, scusate se non intervengo molto, ma sto alla regia, quindi e fa molto molto caldo. Chi mi vuole portare da bere, qualche bibita, sono contento, si accetta Coca-Cola, tutto, qualsiasi cosa, ho sete ragazzi, fa veramente caldo. Il programma è quasi alla fine, spero che vi siete divertiti, ascoltateci ogni lunedì dalle 15 alle 17, Ricky One e Barbie. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this boo. Party people in the house, move. Bye. Ok amici, allora la vostra Barbie vi saluta, vi dà comunque appuntamento lunedì prossimo, sempre alle ore 15 sino alle ore 17 in compagnia di Music World, Barbie e Ricky One, DJ Ricky One che in questo momento si è disciolto sotto il sole, io invece resisto imperterrita qui ancora per salutarvi, per darvi appuntamento con la musica più bella del mondo, italiana e straniera, di Music World qui su Radio Live Session. Vi lasciamo comunque ancora in compagnia di ottima musica, sempre su questa stazione, e noi invece ci diamo appuntamento e vi diamo appuntamento la prossima settimana, lunedì, per il pomeriggio insieme a noi con Music World. Ciao a tutti, a presto. Strong enough to leave your death.